Ho sognato una canzone, una strana filastrocca. Se non sbaglio fa così. Questa notte, che emozione, ho sognato una canzone, c'era tanta confusione.